Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, è tornato a trovarci oggi coach Attilio Caia. Ciao Attilio. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Flavio Suardi, buongiorno. Buongiorno Carlo, ciao Attilio, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Voce del basket NBA ed Eurolega di Sport Italia e anche nostra naturalmente, coach Dan Peterson. Ciao coach. Ciao amici sportivi, Attilio. Attilio ha lavorato anche per noi l'altra settimana. Lo so, ormai lo voglio. Barrichello, Barrichello. Il Rubens Barrichello della situazione. Ciao, ormai lo vogliono tutti come commentatore tecnico per la Lega 2 con la Rai, per Sport Italia con l'Eurolega, per noi naturalmente. Senti coach, settimana grassa questa, sì, 3 su 3 per le squadre italiane, con Roma, una Roma da montagne russe, non solo perché ha vinto a Mosca ma perché perde con Avellino, poi vince a Mosca, poi perde in campionato, poi vince in Coppa, insomma Roma ancora non ha una faccia precisa, o no? Loro sono molto degli alti e bassi ovviamente, però forse questa vittoria gli darà qualche carica qui, perché uno mi può dire che non c'è più Ettore Messina, la squadra più debole, tutto vero fra l'altro, però prendere aereo, vai a Mosca, non dormire bene, giocare con 2 ore di fusi orari in un campo durissimo contro una squadra di grande tradizione e cerca di tornare a casa con 2 punti. Loro hanno fatto. Attilio, ti è piaciuto? Hai commentato appunto lo Sport Italia la vittoria di Roma. Zesca che non aveva 2 giocatori importantissimi, Smodis lungo De Gente ormai, Trajan Langdon, ti è piaciuto molto, mi dicevi prima, Pasciuti, l'allenatore di Mosca. Insomma, si vede che sta facendo esperienza. Ma non è stato un granché. Beh, insomma, è chiaro che dal di fuori è sempre più facile parlare e poi dopo quando perdi c'è sempre il dubbio che potevi fare qualcosa di meglio. Coach, invece Milano, vittoria non di grande prestigio in Germania, però la classica partita da non sbagliare, per questo non era semplice. Anche in campionato, però pure per Milano non ci siamo. Milano sta facendo fatica in campionato, faceva fatica anche Oldenburg contro una squadra non fortissima, però in mezzo di queste difficoltà hanno tirato fuori la vittoria con un flash lì alla fine nel quarto per vincere, molto sofferto, molto difficile, però anche qui i 2 punti in classifica, perché loro, come ho detto in onda, c'è una mini classifica di 3 squadre per quel quarto posto per un top 16, ci sono loro, c'è Oldenburg, i polacchi eccetera, e loro adesso sono 1-0 in questa mini classifica di 4 partite, devo anche pensare a questo qui, poi andiamo a leggere quello che viene dopo. Non una bella partita, non una vittoria impressionante, ma sono 2 punti e chissà se non prenderanno un po' di carica anche loro come Roma. Senti coach, pensi sia troppo presto per dire questo? Io voglio farti questa domanda. Milano non pensi che abbia già fatto vedere qualche piccolo equivoco tecnico-tattico, soprattutto di giocatori che si assomigliano, di una coesione che non è ancora ottimale? Insomma, qualcosina nel sistema di Milano si vede che non funziona. Guarda, loro fanno molto fatica di attacco, poi anche quando faccio le telecroniche faccio i messaggi SMS a Peterson, a Piero Bucchi, dicendo meno palleggi e più passaggi, tanto per dire, cioè molto troppo quando tu basi tutto, ma no, questo non è solamente per Bucchi, per Milano, tu basi tutto molto molto molto su pick and roll coinvolge un palleggio, allora non è solamente il playmaker che palleggia, anche se la guardo l'ala piccola, l'ala grande prende la palla e dice, il nostro indirizzo tecnico è il palleggio, quindi diventa un virus incurabile e tutti palleggiano e non c'è più quella grande circolazione della palla, quindi loro devono avere più circolazione della palla e ovviamente hanno fatto fatica a trovare un vero playmaker, dico che non hanno trovato ancora, perché è la cosa più difficile da trovare. Se tu prendi Zizis, super giocatore, e li metti nel contesto di Milano, Milano fa un salto di qualità spaventoso. Sì, problemi strutturali quindi per Milano più che problemi transitori. Ci vuole anche non dimenticare che loro hanno cambiato diversi elementi. Quando tu cambi anche 1, 2, 3 giocatori dall'anno scorso a quest'anno qua, il fare la squadra, l'amalgama, è una cosa difficilissima, Attili lo sa. Io ti dico una cosa, un anno, 77-78, noi siamo andati tutto il campionato italiano a 2-1, da 1 straniero a 2 stranieri, uno dice prende un altro giocatore forte, qua è stata una fatica non solamente per me ma per tutti gli allenatori della A1, A2, quel un giocatore pur avendo talento, pur scelto bene, inserirlo nel contesto. E ovviamente Milano, con diversi nuovi elementi, molti stranieri nuovi, inserirli, farli funzionare insieme è un lavoro terrificante. Io ricordo i nostri contatti 800 24 0024 per le vostre telefonate e messaggi 349 238 6666. Attilio, ti piace Milano? Ma io prima di tutto, per fare un riassunto, sottoscrivo al 100% quello che ha detto il coach, con un'aggiunta che visto che bisogna fare delle priorità, bisogna fare un'identità, bisogna fare delle gerarchie, secondo me questa è un'operazione estremamente difficile, e se con questa squadra senza cambiamenti, se alla fine Bucchi riuscirà a trovare il cerchio giusto, a fare la quadratura perfetta, sarà stato molto bravo. Per quanto riguarda sempre Milano, non mi convince il ruolo che è stato disegnato per Mancinelli, e cominciano ad emergere scricchioli di spogliatoio, Facebook o non Facebook, sappiamo bene della grana di Hall che non ha giocato a Caserta, partita persa peraltro dopo doppi supplementari, c'è Hacker che non sembra felicissimo, insomma tanti giocatori, difficile anche gestire gli equilibri, coach. Well, è chiaro che quando, allora, io ho sempre detto, se tu prendi in squadra 10 giocatori americani, matematicamente ne hai scontenti 5 giocatori, perché solamente 5 partono in quintetto base, quindi la panacea, l'idea che prendiamo 10 americani, bella teoria, però dopo dici problemi, ok, allora bisogna anche giudicare un po', cioè il miglior argomento per avere più italiani e meno giocatori stranieri è proprio quello, non sono mai contenti perché devono giocare meno minuti, non sono un quintetto, non tirano sempre loro i tiri più importanti, quindi è bello averle, i nomi, insomma c'è tutto, però dopo li deve fare andare insieme, e questo non è facile, quindi e soprattutto per gli americani, ho preso un aereo, sono venuto qui in Europa, non mi fanno giocare, ma com'è questa storia? Quindi è anche umano a sapere questo. Poi c'è sempre, secondo me, il solito problema, chi è la stella di Milano? Chi è la prima punta di Milano? Chi è il leader di Milano? Well, chi è il primo giocatore? Purtroppo tu stai mettendo il dito sulla piaga, ok? Che anche andiamo lì al Palazzo dello Sport e a vederlo giocare, e poi ovviamente c'è poca pazienza da parte di tutti noi, e tutti dicono, ma il quintetto base chi è? Il primo sostituto chi è? Playmaker chi è? Cioè, è chiaro che dicono a Milano che vogliono 10 leader, eccetera. Innanzitutto questo non è possibile, però anche il concetto di proprio avere 10 giocatori intercambiabili, io sono molto più credente nelle gerarchie, e penso anche che Bucchi stia arrivando a questo. Ti spiego perché. Ultimo quarto a Oldenburg non ha fatto tanti cambi, ha detto questo è il quintetto che mi dà un risultato, vado con questi, non faccio più cambi, e la gente è rimasta in banchina. Grazie coach. Ciao ragazzi, ciao Attilio, un abbraccio. Ciao, ok? Adesso ci vediamo, poi commentiamo tutti questi discorsi con Attilio Caia e anche con voi. 800 24 00 24, numero verde, a tra pochissimo. Palla spicchi. Comincio a leggere alcuni messaggi che sono un po' critici nei confronti di Milano, nei confronti dell'operato di Coach Bucchi. Lavori soltanto all'inizio, però insomma mi sembra che Coach Peterson abbia detto un po' di cose, no Attilio? Abbia mosso le critiche anche condivisibili sull'Olimpia. Sì, beh, insomma, poi è chiaro che ognuno ha un proprio modo di gestire, e non esiste una verità assoluta, ma sono i risultati poi dopo l'unico dato oggettivo di cui bisogna parlare. Quindi possono essere tanti modi per arrivare a un risultato, tanti modi per ottenere qualcosa, ognuno può avere il suo. Io sono assolutamente d'accordo con Coach Peterson, l'ho dimostrato con tutte le mie squadre, di creare delle gerarchie, di fare una squadra dove c'è un quintetto, dove c'è un primo cambio, dove c'è un secondo cambio, e dall'inizio, dove tutti devono sapere tutto, bisogna essere chiari, bisogna assumersi anche le responsabilità, perché quando fai delle scelte ti assumi le responsabilità, che se poi le scelte non vanno bene devi rispondere di queste scelte. Però io penso che assumendosi le responsabilità si dà dei messaggi chiari, qualcuno non sarà contento, ma obiettivamente qui, quando uno arriva a un posto di comando, a un posto così, non deve stare a guardare al consenso, ma deve stare a guardare a fare delle scelte, cercando di farle il più possibile giuste. C'è una squadra da fare alla fine, mi sembra. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Non abbiamo ancora detto di Siena, che ha giocato ieri sera, ma fa notizia poi il fatto che Siena batta di 20 lo Zagiris Kaunas, risolvendo la pratica nel primo tempo come sta facendo l'Inter, 4-0. Siena però non ha mollato. Devo dirti la verità, a me è andata benissimo, perché ho acceso la televisione nel momento in cui Siena ha deciso la partita, ha fatto quel break verso la fine del secondo quarto, poi da quel punto in poi non c'è stata più partita. Infatti io volevo chiedere questo ad Attilio per quanto riguarda Siena. Ha cambiato qualcosa? Ha preso Hawkins? Ha preso secondo me Zizis, che è un giocatore che le garantirà grande qualità. È migliorata ancora rispetto all'anno scorso, sei d'accordo? Ti faccio una premessa. Ho seguito Siena in 3 giorni in precampionato a Bormio. Sono ritornato a Siena 10 giorni fa. Ho seguito anche lì qualche giorno di allenamento. Questo perché settimana prossima facciamo una pubblicità su Superbasket. Ci sarà una mia pagina di commento su Siena, sul metodo di lavoro di Siena, che secondo me è la chiave di tutto, che poi dopo vedendo si capisce il perché di tante cose, il metodo di lavoro, come analizza le situazioni, quindi come lavorano con precisione, senza lasciar passare niente, la credibilità e il rispetto che hanno gli allenatori, da Pianigiani a Banchi, cioè lì ogni momento viene vissuto al 100% da ogni giocatore. E collegandomi a questo, la terza parte, la mentalità. Il piede è sempre schiacciato sull'acceleratore, non mollano mai l'allenamento, dal primo secondo, a livello mentale e a livello fisico, si crea poi quell'abitudine per la quale in partita vai dentro e pur se sei sopra di 20, cerchi di andare sopra di 30, e questo non come magari sembra per qualcuno, mancanza di rispetto per gli avversari, perché poi dopo va in automatico, hai con le belle abitudini, quando hai con le belle cose, cioè vedendoli lavorare, vedendoli gente come McIntyre, come sono agonisti anche nell'allenamento, come entrano in campo, come la concentrazione che mettono, tu capisci perché loro non solo vincono perché sono più forti, ma loro stravincono. Sì, la cosa misteriosa è appunto questa attitudine mentale che riescono a tenere dopo 3 scudetti, dopo l'abitudine anche a vincere tutte le partite di campionato. Non c'è nessun avversario che riesce, anche in Europa stiamo vedendo, almeno in queste prime battute, che riesce a mettere a Siena dei dubbi. Nessuno riesce a farli dubitare di qualcosa, della loro organizzazione, della loro forza. No, beh, ma poi loro, la cosa estremamente positiva è che loro non è che si accontentano e guardano alle loro vittorie, ma loro cercano di prendere dalle loro sconfitte come migliorare. Cioè, in un anno hanno fatto 80 partite, 70 vinte e 10 perse, o 75-5. Loro partono da quelle 5, cioè, e dentro quelle 5, siccome hanno talmente, ripeto, un grande orgoglio, giocatori come McIntyre, Sato, Stonu, giocatori molto orgogliosi, e stanno anche male, soffrono di queste sconfitte perché sono assolutamente competitivi, cioè hanno dentro di sé una competizione, tu li vedi da come si preparano quotidianamente, cioè gente che sta male se perde, si allena, si prepara e fa di tutto per non perdere. Questa è la chiave, coi fatti, perché tanti lo fanno a parole, loro lo fanno coi fatti. C'è un messaggio che dice di Roberto: parlate un po' della fortitudo, ogni tanto non siamo morti, grazie. Ma l'abbiamo fatto un paio di settimane fa, la fortitudo che naviga in un mare di problemi, e che ciò nonostante, guarda che contraddizione la pallacanestro italiano, c'è Milano che fa 1900 spettatori a partita, ne fa 2000 con il Panathinaikos, a Bologna dopo tutto quello che è successo e che sta ancora succedendo, palazzetto pieno. Questo mi sembra il miglior flash che si possa dare sulla fortitudo al di là dell'aspetto agonistico. Senti Attilio, nel campionato italiano appena iniziato, cosa ti piace? C'è qualcosa che ti intriga? C'è qualche squadra che ti piace particolarmente? C'è qualche spunto che hai già colto in queste prime partite? Ci sono dei giocatori nuovi che sono arrivati, che avevo visto quest'estate in America alle Summer League, che sono estremamente interessanti. Qualcuno l'ha già dimostrato, qualcun altro sono convinto che lo dimostrerà, e giocatori che hanno notevoli qualità di talento e potranno permettere alle loro squadre di poter fare un salto di qualità e di arrivare anche in piazze forse insperate. E per fare dei nomi, io mi riferisco a Roland, il playmaker di Cremona. È un giocatore che secondo me fra un anno / 2 anni possiamo trovare una squadra di Eurolega che gioca ad altissimo livello, così pure Gary Force, un altro americano di Cremona, un giocatore dal talento immenso, un'ala vecchia maniera. Adesso sempre io sono abituato, per rendere l'idea, a fare degli esempi. Un'ala, adesso scomodiamo Darren Day, sì, cioè, quindi per dare un giocatore che può fare tantissime cose, canestro in tanti modi. Il giocatore, il Bowers di Caserta, sì, un giocatore anche lui di grandissimo livello, di grande qualità. Ecco, penso che giocatori così interessanti possono far fare il salto di qualità a certe squadre, possono, visto che forse le squadre che dovevano essere di prima fascia, a parte Siena, possono fare un po' di fatica, loro sono appena appena dietro, possono crescere, e secondo me poi con un po' di fortuna del calendario ci possono credere e andare avanti. In ogni caso, collegandomi a questo, ho visto buone partite di buoni attacchi. Le difese, venga, onestamente, Riparliamo tra un po'. Chiederti della Benetton, perché la Benetton è una squadra che in queste giornate a me è piaciuta molto. Non so se sei della stessa opinione, non per niente è prima in classifica con Siena e anche con Avellino, che è un po' la rivelazione di queste prime tre giornate. Però Treviso mi sembra stia trovando una dimensione interessante, vista anche l'età media della squadra. Treviso ha tratto estremamente beneficio dai turni preliminari di Eurolega. Non sono andati a buon fine perché hanno sbagliato 10 minuti, 15 minuti nella partita di andata contro l'Orleana a Treviso, dove hanno preso un parziale di 20 punti, e poi quando prendi un parziale così diventa difficile recuperare sia in quella partita che in quella di ritorno. Però da quella partita lì hanno giocato 4 partite ufficiali più degli altri, sono partiti in campionato già in corsa, già in movimento, hanno approfittato di questo e hanno fatto questi risultati. Vedo Treviso, hanno fatto delle scelte, hanno fatto di, soprattutto nel ruolo di playmaker, di andare con Hackett, un giocatore giovane, e quando vai con i giocatori giovani possono essere scommesse. Certo. Scommesse possono riuscire nel lungo tempo, nel medio, nel breve, o anche riuscire un po' meno. Questa scommessa, secondo me, fa sì che oggi non... Io sono un po' scettico su questa scommessa. Mentre vedo assolutamente coperta in tutti gli altri ruoli, sotto canestro da Nicevic a Wallace, a Ukic, allo stesso Renzi, sul perimetro con Neil, Javier Martin, lo stesso Kus, che può dare una mano al ruolo di guardia, e... ecco, secondo me nel ruolo di playmaker è un po' lascia qualche scommessa forte, molto forte. Scommessa forte. Primo ascoltatore di oggi, Roberto da Verona, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a voi, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Una domanda al volo, sì. Sono tifoso della Cimberio, sì, di Varese, sì, e certo, non riesco a decifrare bene che campionato posso fare, perché mi ha entusiasmato la prima partita. Però poi le due sconfitte mi hanno un po' deluso, ecco, un parere vostro, perché secondo me ha un bravo allenatore, però la squadra non è molto amalgamata, volevo sapere cosa ne pensate voi. Squadra magari non attrezzatissima, è chiaro che insomma pesa l'assenza di Ron Slay, che nella prima partita ha fatto tutta la differenza del mondo. Note positive, se vogliamo, nella riserva indiana degli italiani. Varese, ad esempio, nell'ultimo turno ha proposto un Martinoni da 18 punti, Antonelli da 10, protagonisti italiani, però insomma a livello di competitività non mi sembra massimo della vita adesso. Varese senza Rosley. Hai detto tutto te, cara. Cosa dici? Hanno perso contro Biella perché mancava Rosley. Fosse stato Rosley sarebbe probabilmente stato un altro risultato. Gli italiani sono ottimi, ti aiutano, ti possono aiutare, ma non ti fanno vincere. E quindi Varese ha fatto, secondo me, una squadra invece con criterio, considerato poi uno deve fare anche con i mezzi che ha a disposizione, non si può fare i conti senza l'oste, cioè fai i conti con i mezzi che ha a disposizione. Hanno fatto una squadra molto bene, anche amalgamata, perché Pilastrini... Tanti italiani comunque, sì, a Varese, ma poi Pilastrini che contano. Ha preso anche il nucleo della sua squadra di Montegranaro, sì, sì. Childress, Jobey Thomas, Ronsley... E questo è un nucleo estremamente importante, con Puntello che è arrivato ultimamente, Morandé, un altro giocatore che può dare una mano, Galanda una mano la dà sempre, anche per i prossimi anni, perché è un giocatore di temperamento, di carattere, di qualità tecnica, la può dare. Questi giovani che sono un ottimo supporto, un'ottima mano che posso dare, per gli obiettivi che possono avere, per la salvezza, secondo me devono stare... sono sulla strada giusta e possono far bene, e per questo le loro vittorie casalinghe saranno quelle importanti. In trasferta magari un po' più fatica, certo è che se si infortuna Osley o Thomas o Childress, diventa e questo problema. Diventa un problema, però penso come diventerebbe un problema per tantissime altre squadre. Questo è evidente. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Palla spicchi. Torniamo con Coach Attilio Caia, naturalmente, con due ascoltatori, uno chiama da Reggio Emilia e l'altro dalla terra di Coach Caia, cioè Pavia, che anche era nostra, peraltro. Luca, provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Poi io, essendo un tifoso di Reggio Emilia, volevo sapere un commento sulla squadra e sul buon inizio di campionato. E volevo sapere se avevate informazioni sull'infortunio di Slagna e se per caso verrà sostituito da un altro giocatore. Tutto qua, grazie. Adesso, domanda assolutamente pertinente, anche perché, come dicevamo prima, Attilio sta seguendo da vicino il campionato di Lega 2 con i commenti tecnici per la Rai per le partite degli anticipi del sabato sera. Hai già visto Reggio Emilia? Sì, Iesi, una vittoria di Iesi, una buona squadra fatta con ottimo criterio. Ottimo criterio, un giusto equilibrio tra giovani e gente più esperta, tra i giocatori più esperti, appunto questo Slanina, che è un giocatore di categoria superiore, un giocatore che ha sempre fatto l'Eurolega ad altissimo livello, anche l'anno scorso giocava in Spagna, ha fatto un'ottima stagione in Spagna, adesso ha subito un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori forse un mese, forse due, e la società sta già, penso, provvedendo alla sostituzione. Potrebbe essere un nome che potrebbe ritornare, è Marigné. Marigné, che è un giocatore che di affidamento, è già stato a Reggio Emilia, conosce la città, conosce il posto, la squadra, quindi poi l'anno scorso a Pavia ha fatto benissimo, quindi un giocatore di categoria assolutamente di ottimo livello, e giocatori di qualità, di esperienza come Frosini, e giocato come Fulz, come lo stesso Boscagin, possono fare molto bene. E vicino a questi ci sono i giovani Melli, che l'anno scorso è stato vittima sfortunata di un incidente grave, però si sta riprendendo, ha lavorato molto sul piano fisico e l'ho visto molto cresciuto, con una massa fisica, una massa muscolare più importante, un giocatore che ha un'ottima aggressività, un giocatore che può veramente avere un futuro importante sulla strada del recupero, giocatori come Puggi che possono fare molto bene, come Verri che possono fare molto bene, insomma tutto sommato una squadra, Kudla, c'è il cambio del playmaker, un ragazzo su cui hanno investito da qualche anno, una squadra equilibrata, una squadra che magari partita senza grandissime pressioni, senza grandi aspettative, però ha fatto bene, ha vinto in trasferte difficili e quindi insomma può fare un campionato, se ci crede, se di alto livello. Flavio, qualche notizia sull'Anina? Sì, dovrebbe, come diceva Attilio, dovrebbe star fuori un mese, l'ipotesi sembra quella anche dell'intervento chirurgico al ginocchio, ipotesi che peraltro per adesso non trova ancora conferme, nel senso che si stanno muovendo anche un po' sul mercato, probabilmente decideranno in queste ore. Allora, Paolo da Pavia, poi Massimo da Varese. Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi, un ciao a Coach Attilio, mio allenatore, che per quello che ho imparato, lo devo a lui e non solo di basket. E niente, gli auguro grande fortuna, anche se lui non ha bisogno di fortuna, però serve sempre. E niente, una domanda, chiedo, ma questa nostra nazionale, bravo, cosa manca? Discorso cosa cui serve? discorso cui volevo arrivare, anche perché insomma, grazie Paolo. La battuta potrebbe essere per ora un allenatore, mi pare di capire. Per ora serve un allenatore, appunto. Eravamo rimasti settimana scorsa con Recalcati, che era stato sollevato dall'incarico. Si attendeva comunicazione ufficiale, ma comunque di fatto a oggi poi non si è più parlato, non si è più sentito niente, mi pare siamo persi qualcosa, non mi sembra siamo persi qualcosa, siamo rimasti al punto di una settimana fa, non so se nel frattempo qualcosa sia successo. Di certo la panchina della nazionale azzurra è vacante, mi sembra un problemino da risolvere. Cosa dice Attilio? Beh, io penso che stiano già lavorando per trovare una sistemazione, una soluzione, non una soluzione con Recalcati, perché questo penso che sia il primo passo da fare, anche per quello che ha fatto, quello che ha rappresentato con la nazionale. Recalcati è stato un allenatore importante per un momento della nazionale, con i risultati che ha ottenuto, dopodiché come i cicli si possono iniziare, possono chiudere, però Recalcati merita il massimo rispetto, quindi è una pratica che prima di pensare ad altro l'altro va, diciamo, sistemata in un modo o in un altro quella in corso. Senti, io non ti chiedo un nome, ti chiedo un identikit. Poi parliamo naturalmente anche di Barniere Belinelli. Più tardi, dopo la viabilità, già vi do questo appuntamento. Parleremo di NBA e sarà con noi oggi e per tutti i venerdì che verranno Flavio Tranquillo. Quindi state sereni che l'argomento arriva. Ti chiedo un identikit, allenatore della nazionale. Io penso che siamo in un momento di emergenza, un momento sportivamente pesante, drammatico, cioè la prima volta che non siamo andati agli europei e quindi come nelle situazioni di emergenza, cioè anche se purtroppo ci sono le emergenze sociali tutti i giorni, ci sono delle situazioni, delle diciamo soluzioni di emergenza, vengono convocati cose straordinarie, quindi in un momento così io penso che non si possa che non andare su un numero uno, cioè qui ci vogliono i numeri uno. Sì. Oggi il numero uno in Italia, indiscutibilmente, se il risultato, andiamo a fare sport, non siamo a fare politica, quindi parliamo di cose oggettive, non soggettive, cioè parliamo di cose oggettive, cioè oggi c'è un numero uno che ha un nome e un cognome, Simone Pianigiani, per quello che ha fatto, per quello che rappresenta, è un nome credibile, credibile che tu puoi spendere verso i nostri giocatori, verso il nostro ambiente e verso l'ambiente fuori, perché oggi nella palestra si parla di Siena, si parla di Simone Pianigiani. Questo è, secondo me, la prima opzione, la prima Pianigiani o l'organizzazione di Siena tutta insieme, tutta intera da portare in nazionale, può bastare Pianigiani da solo? Questo ovviamente non è possibile, prendere tutta l'organizzazione, perché poi Siena deve andare avanti, non è che Siena possa fermarsi e immolarsi alla cava, però già un allenatore... Ma per dire, per farla con i nomi, Minucci con un incarico, so che è fantascienza anche perché non ci sono grandissimi rapporti in questo momento tra i due componenti Siena e Federazione Italiana, però Minucci con un ruolo di... supervisore, con un ruolo di general manager della nazionale, mi sembra che sia difficilmente realizzabile, anche perché lui obiettivamente penso che la cosa principale che possa tenere è Siena, cioè Siena ha costruito un gioiello, ha costruito un gioiellino, ci ha messo tanti tempi per costruire un gioiellino invidiato e da cui prendo un esempio non solo a livello italiano ma anche a livello europeo, cioè spesso Siena ci sono tante, fanno anche, Minucci viene invitato a parlare del modello Siena in conferenze europee, quindi obiettivamente penso che anche lui sia ben attento che venga disperso questo problema. E già il fatto di dover magari tra virgolette perdere per qualche tempo, prestare qualche tempo Pianigiani, insomma sarebbe, non è facile proprio anche il proseguo, quindi su quell'aspetto secondo me non c'è neanche l'interesse per quanto riguarda la parte di Minucci. Dopodiché Pianigiani può lui esportare, sa delle cose positive, delle priorità, sa quello che c'è da fare, sa di quello che ci può essere bisogno per costruire una squadra vincente, sa un metodo, sa come poter dialogare e sai, quando vinci aumenta la tua autostima, ma aumenta anche la credibilità che hai verso gli altri. Cioè, dice una cosa, uno che ha fatto certi risultati, è molto credibile ed è facile seguirlo e lui può esportare da quella cosa di Siena tutte le cose principali, non i nomi, perché poi dopo Banchi è eccellente, è un ottimo allenatore, però uno che possa fare quel tipo di lavoro, uno che possa fare un altro tipo di lavoro, cioè fare delle cose, cioè un regista... un leader, Simone Pianigiani, e poi dopo ci possono essere altre situazioni. Tanto ha detto lui, non va mai in vacanza. No, infatti. Io, lungi da me pensare che Simone Pianigiani non sia il numero uno in Italia, è tutt'altro. Ti faccio questa domanda, Attilio, però proprio perché quella della nazionale è una situazione di emergenza, ci si può permettere un allenatore part-time, ancorché il migliore in assoluto? Perché il part-time, cioè la nazionale, tutte le nazionali hanno un allenatore part-time. Sergio Scariolo allenato in Russia e faceva la nazionale spagnola, mi sembra che l'abbia fatta nel miglior modo possibile, e così pure anche con la Russia l'anno scorso abbia fatto bene. Repesa allenava in Italia, allenato la nazionale croata, cioè tanti hanno fatto il lavoro part time. La nazionale ha un impegno due mesi, cioè l'ipotesi D'Antoni, anche D'Antoni era part time, era un'ipotesi affascinante, D'Antonio a livello di presenza è affascinante, ma addirittura dall'altra parte dell'oceano, quindi ancora più facile che è part time, però è qua in Italia, Pianigiani che possa vedere tutto. D'altronde nazionale è attività 2 mesi all'anno e poi dopo sarà compito suo magari avere un certo staff, certo, che magari lo possa aiutare, sostenere e fare quel lavoro tra virgolette sporco che un allenatore part-time non possa fare. Non dimentichiamo lo stesso Re Calcati, partì come allenatore part-time proprio allenando Siena oltre che la nazionale italiana. Massimo da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Volevo tornare un po' alla mia Varese. Sì. Visto che avete parlato prima di scommessa di Treviso che ha puntato su Hackett, non ritenete che forse sia stata una scommessa un po' azzardata a puntare ancora su Childress, che mi sembra in queste prime partite non possa reggere fisicamente visto appunto l'età? E poi tornando, vabbè, visto che avete parlato di Siena, ho visto le prime partite di Eurolega, se per voi non poteva essere questo l'anno buono. Sì, potrebbe quantomeno, poi sa, è come il discorso della Champions League, uno la vince e tutti gli altri la perdono, però l'obiettivo Eurolega, l'obiettivo Final Four è assolutamente realizzabile. Quanto a Varese e a Childress, risponde a Tigliocaia. Beh, io penso che Childress sia un giocatore idoneo per ottenere l'obiettivo che vogliono avere, cioè l'obiettivo salvezza con Childress è una bella garanzia. È vero che non farà 30 partite di alto livello, sì, però quelle 15-20 partite di alto livello, di cui delle 20 che fa ne vinci 15 che servono per salvarti, questa è una garanzia, sai, e a volte non avendo certo margine di errore, perché sì, non puoi permettere di rischiare di non avere certezze, dove non puoi permettere magari di dover continuamente andare sul mercato, la scelta di Childress è stata ottimale, e poi ripeto ottimale in funzione a dove vuoi arrivare, l'obiettivo che vuoi raggiungere. Perfettamente d'accordo, cioè tu hai un giocatore certo, magari non ce l'avrai per 30 partite al massimo livello, però sai già da adesso quello che ti darà. E poi non dimentichiamo che hanno dietro due giocatori estremamente interessanti come Passera e come Gergati, sì, possono dare una bella mano. Allora Childress è funzionale anche a Passera e a Gergati, alla loro crescita, e lui certo è, non avesse avuto due giocatori giovani ma così anche affermati, perché ormai Passera, sai, giovane ma ormai è 4-5 anni che gioca a 2, a 1 a un certo livello, quindi un giocatore che ha affermato, ha dimostrato quello che può dare, e di conseguenza tu puoi anche rischiare qualcosa sulla non freschezza di Childress perché hai dietro Passera e Gergati. Ci fermiamo per il traffico, subito dopo torniamo, vi ripeto il contatto 800 24 00 24, numero verde, una decina di minuti ce li abbiamo ancora. Palla spicchi. Dunque, ecco che torniamo, tra poco sarà il momento di aprire il capitolo NBA. Come sappiamo, l'altra notte Bargnani e Bellinelli hanno fatto i numeri gallinari, anche 7 tiri da 3 punti per il Gallo nella sconfitta di Miami. Non vorrei che adesso diventasse soltanto un tiratore da 3, uno specialista. Beh, Danilo può fare tantissime cose, però il tiro a 3 punti dalla distanza per lui è più facile, cioè ha un raggio di tiro forse anche migliore di quello di Bellinelli, perché Bellinelli è un tiro in uscita dai blocchi, Danilo può tirare dal palleggio in arretramento, e poi è alto, ha una meccanica veloce di tiro, un ottimo tiro dall'alto, quindi può fare tiri anche da una gettata superiore. E poi quando crescerà, se deve ancora prendere confidenza fisicamente con il nuovo status, può essere un giocatore. Tu sai quello che io penso di Danilo, quindi qualsiasi cosa è superflua. Come anticipato prima, da oggi e auspicabilmente ogni venerdì a sciogliere la seduta sarà Flavio Tranquillo. Ciao Flavio, grazie. Ciao Carlo. Senti, stavo appunto parlando, dietro grande pressione e richiesta popolare, apriamo il capitolo NBA, perché ho detto, ma come, non avete ancora parlato? Aspetta un attimo, arriva Flavio Tranquillo. Mago, Bellinelli, Gallinari partono col botto e planano sulle prime pagine di tutti i nostri giornali. Come diceva qualcuno, tira più uno di questi nell'NBA che un carro di Senesi. Sicuramente quest'anno c'è grande attesa, direi che è un'attesa che è stata vissuta bene da tutti e tre, nel senso che sono arrivati più pronti, più maturi a questa stagione, poi prendere la prima partita NBA come un punto di riferimento per una stagione da 80 o sperabilmente da 100, se non 115 partite, naturalmente sarebbe sbagliato, però le indicazioni sono molto molto interessanti. Senti, nel calcio italiano l'Inter, come sai bene visto che lo segui in maniera approfondita, nel nostro basket Siena, ma anche l'NBA rischia la tirannia, in questo caso quella dei Lakers. No. Non sono sicurissimo, perché diciamo che tra i due sistemi c'è una certa differenza per quello che riguarda la possibilità di chi è sotto di risalire, e quindi secondo me è molto più difficile anche da un punto di vista psicologico rimanere in cima lì che non arrivarci in cima. I Lakers rimangono una squadra che ha delle sicurezze e che parte con i favori del pronostico. Se devo dirti, secondo me non rivince, ovviamente mi esporrò al pubblico ludibrio nel prossimo giugno quando ci sarà a Sepulveda la parade, ma secondo me non rivincono. Chi vedi bene? Qual è l'antagonista? Qual è l'alternativa ideale secondo te? Ma guarda, direi che la cosa logica è dire Boston, perché è l'altra squadra che ha le stesse certezze, nel senso che ha vinto un titolo e l'anno scorso non ha potuto difenderlo, perché se levi Garnett è come levare Bryant dall'altra parte, hanno lo stesso nome sulla maglia ma non sono la stessa squadra. Boston di sicuro, anche perché si è rinforzata, anche se ha il grosso punto di domanda di Rondo, e poi se la caviglia di Ginobili è di un certo tipo e Duncan ha un ginocchio che gli permette di muoversi anche orizzontalmente a una certa velocità ora di aprile-maggio, ci mettiamo gli Spurs di sicuro. Cleveland al momento non è una possibile concorrente, perché c'è il cartello lavoro in corso e ci sono probabilmente anche i postumi dell'eliminazione della passata stagione, però terrei buono anche Cleveland, direi una di queste quattro, ognuna col 25%. Attilio, da allenatore, che effetto ti fa vedere due italiani che giocano spesso insieme, io credo, ma succederà, con la stessa maglietta, la stessa squadra nell'NBA? Cosa danno questi al basket italiano? Beh, al basket italiano danno molto, e è il punto di arrivo per tutti, giocano. Una volta obiettivamente era l'obiettivo di un ragazzo era andare a giocare con la nazionale. Adesso si è alzata l'asticella, sì. L'obiettivo di un ragazzo è andare a giocare in NBA. Ci sono arrivati i nostri, questo è un grande esempio, una grande cosa che sarebbe importante da poter cavalcare, e poi è positivo perché dà anche grande onore alle scelte di chi fa queste scelte, che vedono anche nel mercato europeo. Da tanti anni in Europa ci sono tanti giocatori interessanti, dall'Europa sono arrivati anche americani interessanti, e mi sembra che Toronto sia quella che sia andata molto su quella politica, da Anthony Parker che era a Roma, che è andato lì, da anche Calderon dalla Spagna, così cosa hanno fatto con Garbaose e altri, e questo vuol dire che rispettano il basket europeo, il mercato europeo, e sono stati segno di grande intelligenza e sono stati anche premiati da questo. Curiosamente manca un allenatore europeo su quella panchina, sappiamo bene quella di Toronto, sappiamo bene a chi va questo riferimento, Flavio Suardi. Io volevo chiedere a Flavio questo sui 22 punti di Gallinari, che sono 22 punti sicuramente incoraggianti, ma mi pare che anche dal punto di vista fisico finalmente Danilo riesca a cominciare a giocare da Danilo Gallinari anche lì. Sicuramente sì, sono incoraggianti di per se stessi, credo che conoscendo Danilo l'ultima cosa che vorrebbe fare è segnare 22 punti in questo contesto, cioè farne una quindicina di quei 22 nell'ultimo quarto, certo. Sotto di 30, il che non significa che dovesse tirare per sbagliare o non dovesse tirare visto che era libero. La prima considerazione è che fisicamente assomiglia a Danilo Gallinari e non a quell'imitazione dolorante della passata stagione. La seconda è che una volta messa a posto la schiena, adesso deve mettere a posto la testa cestisticamente parlando, nel senso che deve accettare pienamente un sistema che è molto particolare e che non necessariamente è così comune trovare nelle categorie in cui ha giocato fino a quando è arrivato nell'NBA. È naturale che ci sia grande stima e grande rapporto, però da lì a giocare quel tipo di pallacanestro, fare quel tipo di scelte, parlo naturalmente di metà campo offensiva, ci passa un po' di tempo, quindi ci vogliono 2-3 mesi, perché quando è libero tiri senza pensare a cavolo, è vero, sono libero, devo tirare, anche se è il primo passaggio, anche se non c'è stato un passaggio, anche se è a 8 metri dal canestro. Grazie Flavio, alla prossima. A voi. Grazie, grazie davvero Flavio Tranquillo, grazie anche a Cosa Attilio Caia che tornerà a trovarci quanto prima, naturalmente, impegni televisivi permettendo. No, speriamo anche altri impegni permettendo. Certo. Grazie a Flavio Suardi che è stato qui vicino a me. Con lo sport torniamo domani pomeriggio dalle 5 alle 6, vi aspetto. Palla spicchi.